24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Un pranzo quasi solitario con l'unica commensale, la presidente brasiliana Rousseff, che si tiene a distanza di sicurezza. La battuta del premier canadese Harper, che ha fatto il giro del mondo: non posso non stringerti la mano, ma ho solo una cosa da dirti, vattene dall'Ucraina. Al G20 d'Australia il presidente russo Putin si è ritrovato isolato, trattato quasi con sgarbo. Se la Russia continua a destabilizzare l'Ucraina ci saranno nuove misure, nuove sanzioni, dice Cameron, consapevole che comunque con Putin bisogna mantenere un canale aperto. Se Putin continua a comportarsi come sta facendo, violando leggi internazionali, fornendo armi ai separatisti in Ucraina, tradendo un accordo che lui stesso ha firmato poche settimane fa, allora l'isolamento della Russia andrà avanti. Barack Obama. Erano David Cameron, Barack Obama, che con i leader riuniti in Australia sono sembrati uniti, almeno così pare, contro Putin. Professor Sergio Romano, buongiorno. Putin che pranza da solo al tavolo del G20. È un'immagine di guerra? Beh, è un'immagine inquietante, soprattutto perché mi sembra che dimostri quanto il pregiudizio nei confronti della Russia stia producendo effetti e risultati che ricordano effettivamente la psicologia della guerra fredda. Naturalmente alcune colpe possono certamente essere addebitate a Putin: il sostegno dato ai ribelli filorussi, una certa, come dire, brutalità nel modo in cui ha condotto una parte della crisi. Tutto questo è vero, ma ci si dimentica che la Russia è stata per molti aspetti messa in un angolo. Esatto, ecco, professor Romano, io volevo chiedergli, si può considerare un fallimento questo G20 che aveva l'obiettivo di creare posti di lavoro, invece porta venti di guerra? Credo di sì. Ma Putin che se ne va prima del tempo, comunque è un segno di forza o di debolezza? Probabilmente è un segno di irritazione, di fastidio per un clima che stava diventando molto velenoso. Non credo che sia stato semplice per un presidente di un grosso Stato vedersi circondato da persone che in qualche modo volevano manifestare pubblicamente il disagio proprio. Sì, e soprattutto in qualche modo usare le telecamere, certo, l'attenzione mondiale per dare alla loro protesta contro Putin, come dire, un tono più popolare. Ecco, più popolare. Professor Romano, alla Merkel Putin ha detto una cosa precisa: che se saltano gli accordi sull'interscambio russo-tedesco, la Germania perderà 300.000 posti di lavoro. Ecco, è un ricatto, un rischio reale? Che cos'è? Ma io credo che questo faccia parte in qualche modo della retorica, delle polemiche, e sia, spero, auguro, semplicemente, come dire, il modo con cui gli uomini politici sfogano se stessi e cercano di dare alle proprie opinioni pubbliche il sentimento che hanno degli argomenti forti di cui valersi, perché francamente se dovessi poi cercare di fare qualche previsione sulle effettive ricadute di questa crisi, direi che sarebbe un disastro per tutti. Appunto, ma secondo lei, professor Romano, ci saranno altre sanzioni contro la Russia dopo questa freddezza, questa violenza, anche dei gesti televisivi, diciamo? Ma io ho l'impressione, spero che non sia soltanto speranza, che il modo in cui è stato condotto il vertice australiano, pessimo modo in cui è stato condotto il vertice australiano, abbia in qualche modo indotto l'Unione Europea ieri ad adottare un atteggiamento più conciliante. Voglio dire, non dimentichiamo che fino a qualche giorno fa si dava per scontato che le sanzioni sarebbero state, come dire, irrigidite. E invece ancora non è deciso. E non è accaduto. Ecco. Però il presidente Poroshenko, presidente ucraino, ha detto: siamo pronti alla guerra totale e siamo sostenuti dal mondo intero. Ecco, ma chi è pronto a sostenere una guerra contro la Russia? Ma nessuno. nessuno, direi, spero. E ancora una volta è il, come dire, la spirale diabolica della retorica verbale che in qualche modo finisce per premiare in queste circostanze. E si finisce alla fine per essere prigionieri delle proprie parole, e certe dichiarazioni sono state fatte soltanto per compiacere i propri elettori, per dimostrare che si hanno degli argomenti forti da utilizzare. Questa è una spirale che... È però una spirale che poi ha delle conseguenze nei fatti. La Merkel ha detto, alla fine del G20, ha detto: il conflitto in Ucraina può degenerare in roghi più grandi. Sì. Insomma, sì, parole pericolosissime. Sì, alla fine devo dire che la Merkel ha passato un paio d'ore all'albergo di notte con Putin, certamente per cercare di rattoppare, di riaprire un dialogo che si era apparentemente interrotto. Io credo che anche la Merkel sia in qualche modo giocando quella partita che una volta negli anni della Guerra Fredda si chiamava del brinkmanship, cioè del conflitto sull'orlo dell'abisso, quando si sta sull'orlo, sì, dell'abisso nella speranza che cada l'altro, o di non cadere, o comunque di cercare di indurre l'altro a dei ripensamenti. È come sul braccio, col braccio di ferro, insomma, a vedere chi cede prima. Chi cede per prima, sì. Tenga presente poi, tra l'altro, che uno dei forti argomenti che vengono utilizzati contro Putin è quello della violazione delle frontiere. Sì. Come dopo la fine della Guerra Fredda, dopo come tutti quei trattati che abbiamo firmato, violare una frontiera con l'annessione della Crimea. Sì. E questa è la grande colpa, questo è il grande peccato che Putin avrebbe commesso e che giustifica tutta la nostra polemica contro di lui. Ma ci si dimentica che prima ancora che Putin violasse le frontiere dell'Ucraina, la NATO aveva violato le frontiere geopolitiche dell'Europa. La guerra fredda quando la guerra fredda terminò, la NATO confinava con il blocco sovietico. Certo. Da allora lo ha inghiottito il blocco sovietico, ha messo all'interno di un'organizzazione politico-militare nata in funzione antisovietica e implicitamente antirussa, ha messo tutti i paesi che facevano parte del patto di Varsavia. Quindi noi accusiamo Putin di avere cambiato le frontiere dell'Ucraina. Avendolo fatto per primi su scala infinitamente più grande, come se cambiare le frontiere di una zona di influenza non fosse altrettanto pericoloso, certo, che cambiare le frontiere di uno Stato. Ecco, professor Romano, lei, in tutte le volte che la leggo o la sento, è sempre moderatamente ottimista, diciamo, nella valutazione delle tensioni internazionali, pur avendo chiari i rischi. Lo resta? Ma vede, anzitutto probabilmente anche l'ottimismo, come dire, è un modo di affrontare le crisi. Naturalmente. In una situazione in cui tutti tendono in qualche modo a esasperare, perché credono di avere vinto una partita se sono stati gli ultimi a parlare e hanno detto la cosa più grossa, quella, certo, che maggiormente aveva risonanza nella pubblica opinione. Beh, in una situazione come questa non vedo altra risposta che abbassare i toni. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ecco, Pietrangelo, Anna ci scrive: l'Occidente verginello da lezione al cattivello, semplicemente ridicoli, detto un po' popolare. Non è quello che stava dicendo il professor Romano? Sì, anche perché l'Europa che fa la guerra alla Russia è come quello che segue il ramo su cui è seduto per staccarsi dall'albero, solo che il tagliatore non è separato dal ramo stesso, e quindi l'idea stessa che sia venuta a mancare la consapevolezza di appartenere allo stesso continente è di là da venire, e tutti i guai, perfino quelli economici nostri, partono da questo fatto: tagliare il ramo. Mario, sei d'accordo? Sì, Romano ha fatto un'analisi precisa come sempre. Io aggiungo solo una cosa: incredibile come è stato condotto il G20, cioè, sì, non sei mai infatti, visto niente del genere, pazzesca. Un'autorete colossale, nessuno oggi può rimettere insieme un ordine mondiale se non c'è anche la collaborazione della Russia. Invito tutti a leggere l'ultimo libro di Kissinger, soprattutto i signori diplomatici che si sono riuniti a Brisbane, e forse imparare qualcosa, perché è incredibile. Guarda, quell'immagine di Putin da solo a tavola è insopportabile. Ma è pazzesco, sì, ma cosa fuori di senso. Ma tu puoi pensare di escludere la Russia dalla partita medio orientale? Cosa fa in Siria senza l'appoggio di Putin? Tanto per dirne uno. È perché in Iraq, perché la stessa partita con Israele, vogliamo continuare così? Vabbè, quindi è stata proprio un vero errore. Cosa fanno gli artigiani italiani? Fanno gli artigiani italiani che non esportano più? Hai ragione. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. I fondi europei negli ultimi anni e decenni l'Italia li ha spesi peggio di come avrebbe potuto. Il nostro governo ovviamente cercherà di ricambiare il modello, cercando di dare più denaro su questioni strategiche, infrastrutturali e importanti per il paese e meno per eventi una tantum. Decine di miliardi ancora da spendere, già pronti, e che possono fare la differenza tra 2 punti di PIL o 0. Se noi riuscissimo a cantierare i soldi disponibili, avremo 2 punti di PIL in più nel sud. Abbiamo l'onda lunga di un passato sbagliato, una programmazione in parte errata, perché destinata soprattutto alle grandi opere, non a quelle cose che si possono spendere immediatamente, ma anche di una programmazione fortemente in ritardo. La Commissione europea, le autorità che controllano, hanno voluto multare la Puglia che, relativamente alla spesa comunitaria, non faceva adeguatamente i controlli necessari. Oggi siamo proprio in un'altra epoca, perché per l'autorità di controllo siamo considerati regione all'avanguardia. Dobbiamo fare con quello che abbiamo, rimboccarci le maniche e riuscire a fare una riprogrammazione, una buona riprogrammazione, e spendere i soldi che ci hanno dato e che sono un'occasione straordinaria di occupazione, di crescita per il Mezzogiorno in particolare. Così avverte Johannes Hahn, commissario europeo per le politiche regionali. Se queste regioni non riescono a raggiungere gli obiettivi, devono aver presente che siamo di fronte ad uno spreco di soldi pubblici, che invece andrebbero utilizzati negli interessi dei cittadini. E questi sprechi io non li posso accettare e sono pronto a reagire. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Erano alcune delle dichiarazioni dei politici nel tempo sulla spesa dei fondi europei a disposizione dell'Italia. Ecco, noi, per capirci qualcosa, abbiamo fatto un fact checking, cioè un confronto fra le parole e i fatti, con i nostri collaboratori di Pagella Politica, per capire se è vero che l'Italia è meno efficiente di altri paesi nella spesa dei fondi strutturali europei. E abbiamo scoperto che è vero. Cioè l'Italia effettivamente si trova agli ultimi posti tra i paesi membri dell'Unione Europea in capacità di acquisizione delle risorse che le vengono assegnate per realizzare i progetti previsti e finanziati. L'Italia è al 6° posto. L'Italia infatti fino ad oggi ha speso il 54,3% dei 27, quasi 28 miliardi di euro messi a disposizione per il settennato 2007-2013. Quindi i soldi che restano vanno spesi entro il 31 dicembre del 2015. Ci sono profonde differenze, naturalmente, nella velocità di spesa tra regione e regione. Non tutte le regioni sanno spendere o possono, riescono a spendere nello stesso modo. L'Abruzzo è la regione più virtuosa, mentre la maglia nera va a Campania, Calabria e Sicilia. Ecco, sentiamo che cosa succede, per esempio, nel sito archeologico di Sibari in Calabria. Era il 18 gennaio del 2013 quando il fiume Crati esondò, inghiottendo il sito archeologico di Sibari, uno dei più importanti del Mediterraneo. Per ripulire il sito ci sono 18 milioni dell'Unione Europea. C'è voluta l'emergenza perché ci si accorgesse che c'erano anche lì milioni di euro per l'emergenza idrogeologica ancora non spesi. Nel frattempo il fiume continua ad esondare, come ci racconta il sindaco Gianni Papasso. Ci sono i soldi non solo per il Crati, cioè la regione Calabria ha 220 milioni di euro da utilizzare per il rischio idrogeologico. Sono almeno 4 anni che sono belle disponibili. Io sto bussando tutte le porte che si possono bussare, però molto spesso trovo un muro di gomma. 800 24 0024, il numero verde 349 238 6666, l'SMS. Stiamo parlando della spesa, della capacità di spesa dei fondi europei. Cerchiamo di districarci in questo argomento. Gianfranco Viesti, buongiorno, professore di economia applicata all'Università di Bari. Buongiorno, ecco, a lei. Intanto ci spiega brevemente perché riusciamo a incassare velocemente i fondi sociali e non quelli che finanziano le spese per progetti strutturali. Perché? Dunque, va un po' più veloce la spesa appunto per gli interventi del Fondo Sociale, cioè istruzione, formazione, occupazione e inclusione, perché sono o progetti nelle scuole o piani di intervento o sussidi all'occupazione, quindi si danno velocemente. Ecco, ma non è, professore, che i fondi, con i fondi sociali si finanziano soprattutto quei corsi di formazione, eccetera, che sono notoriamente quelli che interessano di più ai politici? Beh, la parte della formazione professionale ormai è molto minoritaria. Ci sono degli interventi molto grandi nelle scuole, poi ci sono sussidi all'occupazione e interventi diciamo su asili nido e infrastrutture sociali, quindi sì. È vero che la formazione professionale non è granché, sicuramente non è la parte preponderante. E sono serviti i fondi per le scuole? Moltissimo, nelle scuole del sud adesso c'è un rapporto studenti per computer uguale a quello delle scuole del nord, perché negli ultimi anni si è investito in laboratori e in computer. E quindi questa è una buona notizia, diciamo, sulla spesa dei fondi sociali. Certamente, non è l'unica, ci sono stati diversi ambiti di intervento nei quali ci sono stati dei miglioramenti lenti, sicuramente inferiori a quelli che si sarebbero potuti raggiungere, ma non parlerei affatto di spreco. Però, professor Viesti, l'economista Roberto Perotti invece dice che proprio i fondi sociali non danno la certezza che ci sia una ricaduta positiva sul territorio. Ha torto allora? Ma guardi, vedere le ricadute è una cosa su cui gli economisti si accapigliano da tempo, soprattutto adesso che c'è questa crisi così profonda è molto difficile stabilire quanto la formazione professionale sia fatta bene guardando a chi trova lavoro, perché il lavoro non si trova per questo. Queste politiche sono molto valutate, sono le politiche pubbliche più valutate che si fanno in Italia. Tutto si può migliorare, ma certamente dire che non c'è valutazione mi sembra veramente esagerato. Ecco, professor Viesti, però, per esempio, parliamo di oggi, Genova è martoriata dall'acqua, non solo Genova, ma prendiamo l'esempio di Genova, però ci sono fondi da spendere ma i cantieri sono fermi, perché? Perché siamo in Italia e abbiamo un enorme problema di realizzazione delle opere pubbliche. L'altro giorno è stato pubblicato un rapporto proprio di chi si occupa di fondi strutturali che dà dei numeri inquietanti. Cioè? Tutto il ciclo della realizzazione delle opere prende moltissimi anni e ci sono difficoltà in tutte le fasi, dalla progettazione all'aggiudicazione, all'apertura dei cantieri, realizzazioni, il TAR, certificazioni finali e pagamenti. Ecco, ma qual è la prima cosa da fare, professore, per far marciare l'iter dei fondi europei in modo veloce per le realizzazioni strutturali? Guardi che purtroppo non parlo solo di fondi europei, parlo di tutte le politiche. Sì, vabbè, tante volte certo, naturalmente. Si accusa questa politica in particolare, ma in realtà questa politica è uno specchio che ci fa vedere come l'Italia non funzioni. Parliamo delle normali siamo perdite. Sempre al problema burocratico, siamo sempre lì? Non è solo un problema burocratico, è un problema di qualità delle amministrazioni appaltanti, è un problema di regole e di ricorsi. Vabbè, insomma, in qualche modo sempre tutto, burocrazie sì. sono. Sì, è un problema di efficienza del sistema dei rapporti pubblico-privati. Nel caso di Genova i fondi sono rimasti bloccati perché c'è stato il ricorso al TAR da chi ha perso. Ecco, però noi abbiamo visto, l'abbiamo detto, che ci sono ancora tanti soldi da spendere entro il 31 dicembre del 2015, metà dei soldi che l'Europa ci ha dato. Ma come facciamo? È un po' di meno per fortuna. Vabbè, ma sono sempre tanti. Dunque, questa però, attenzione, è una rendicontazione, cioè dobbiamo, i fondi non ce li danno prima, noi prima li spendiamo, poi mandiamo le carte a Bruxelles, loro le controllano e ci mandano indietro i soldi, quindi da questo punto di vista c'è molta carne al fuoco che sta proseguendo e andando. Però, professore, si rimpallano le responsabilità, il governo e le regioni, l'abbiamo sentito fra Renzi e il Presidente presidente della regione Liguria, per esempio. Ma la responsabilità è più del governo o delle regioni? Noi non abbiamo molta memoria storica. In realtà nei primi 5 anni di questo ciclo si è speso solo il 10%, cioè dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2011. Praticamente ci siamo occupati di queste politiche solo con l'arrivo del governo Monti. In quel periodo il problema è stato eminentemente un problema politico di governo centrale. Sicuramente le amministrazioni, diciamo, italiane non brillano, però non darei loro tutte le colpe. Ecco, ma cosa sta facendo adesso il governo per spendere questi soldi veramente che mancano? Ma i due governi precedenti hanno fatto delle opere di riprogrammazione e di task force e monitoraggi con le amministrazioni. Credo che il sottosegretario Del Rio stia facendo la stessa cosa. Lui sta parlando di questi fondi soprattutto da spendere per il Sud. Ma ecco, ma come funziona la distribuzione del finanziamento tra le varie regioni? È su progetto oppure su percentuali? No, ci sono delle regole europee che le distribuiscono in tutta Europa e ci sono categorie di regioni. E poi all'inizio di ogni ciclo ciascun paese distribuisce al proprio interno le risorse disponibili. È un plafond totale dato. Io vedo il sottosegretario Del Rio molto attento a questi temi, però vedo anche che il sottosegretario Del Rio ha tantissimi compiti. Purtroppo la novità di questo governo è che non c'è un ministro che c'ha la responsabilità politica. Ecco, professore, un'ultima cosa, professor Viesti, ma per la pianificazione dei finanziamenti fino al 2020, che decisione ha preso, se le ha prese, questo governo? Dunque, ha preso delle decisioni su cui io sono molto critico, perché la lezione del passato è che bisogna fare meno cose e soprattutto con delle responsabilità chiare fra governi centrali e regionali. Invece purtroppo abbiamo un documento di programmazione che ha ancora dentro 340 azioni da fare e questo non significa che non abbiamo imparato molto. Bisogna fare un accordo politico per dire che con questi fondi si fanno alcune cose e non altre. Ecco, scegliere è difficile. Quindi però siamo sempre in qualche modo una logica di finanziamenti appoggia non programmati dentro una politica industriale vera. Sono troppe tutte insieme, questo non è che sono cose sbagliate, non è che fare l'acqua o le ferrovie Se sono tutte non se ne fa nessuna. Tutte insieme c'è un sovraccarico amministrativo che nel nostro paese non si riesce a fronteggiare. E quindi lei che suggerimento dà? Suggerisco di concentrare questi interventi su alcune opere, meno opere infrastrutturali che hanno più tempi più lunghi, e interventi soprattutto sulla competitività delle imprese da una parte e sulla tenuta sociale dall'altra. Solo che questo espone il governo a una responsabilità che per la fare responsabilità le altre cose, di scegliere, che è la responsabilità primaria dei governi, perché se non si sceglie, ma soprattutto che poi le altre cose deve nel bilancio ordinario dello Stato, come sarebbe normale che fosse, trovare le risorse necessarie. Ecco, professor Viesti, un'ultima cosa, l'ha già un po' detto, il sottosegretario Del Rio insiste molto sugli investimenti nel Mezzogiorno, c'è una priorità da dare lì? Dunque, questi fondi sono 2/3 Mezzogiorno e 1/3 Centro-Nord, quindi è un discorso nazionale. La priorità mia personale è il rilancio delle imprese, se non ripartono le imprese non riparte niente. Ci vorrebbe una politica industriale un po' più intensa che anche con questi fondi si può fare. Non ne vedo molta traccia, ma discutiamone, qualcosa verrà fuori. Ma con qualcuno ne discute lei? Sì, e stiamo provando a discuterne un po' sui giornali, con qualche libro, con qualche associazione confindustriale. Siamo ancora un po' carissimo amico, insomma, mi pare di capire. Sì, rispetto a quello che succede in Francia o in Inghilterra, dove il problema della tenuta delle imprese è molto più all'attenzione del governo, qui mi pare che si confidi molto in defiscalizzazione e ripresa automatica del sistema delle imprese, è troppo poco invece su misure per l'innovazione o per la crescita dimensionale che invece mi paiono necessarie. I più importanti. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Pubblicità. Mix 24. Larger than life, nice. Thank you. la metropolitana? Anche oggi la metropolitana, due che se ne stavano svegli ma sognanti, fermi ma viaggianti, vestiti ma denudati nell'uniforme elegante, quella dell'umore più che giusto. Lui e lei di profilo, come in un graffito di grafite in bianco e nero, tutto diventava in bianco e nero lì, e lo sferragliare dei vagoni era come il fruscio della puntina nel giradischi, e lui e lei li ho osservati, se ne stavano ipnotizzati, in un'attesa che era quella del desiderio, e però non era un film, stavano dentro una canzone ed erano restituiti alla parola più bella, amanti, che è detta di due che si amano, di due che fanno l'amore. Questa dolcezza aiuta a sopportare la vita, Mario. Sentiamo un attimo Fausto da Macerata, prima delle bolle. Fausto, buongiorno. Buongiorno, sì, complimenti per la trasmissione. Guardi, grazie. Volevo solo fare una mia considerazione. Dica. Purtroppo queste problematiche, diciamo, all'Italia dal punto di vista strategico direttamente gli tocca poco, però purtroppo gli tocca sotto gli aspetti economici. Stiamo parlando della Russia, no? Esatto. Sì. Dica. Proprio, sappiamo benissimo che dalle nostre parti, ecco, ci sono grosse aziende che... Voi fate scarpe, no? Sostanzialmente, da quelle parti. Anche altri, però sì. Anche altri settori, però adesso mi viene in mente questo, ecco, c'è un po' di preoccupazione perché naturalmente la Russia è il paese dove si esporta molto, insomma, ecco, perché parliamoci chiaro, l'alta moda non è che si riesca. Vabbè, insomma, per voi queste sanzioni sono drammatiche, questo è il punto. Drammatica, non so, ci è un po' difficile. Qua, ecco. Grazie. Mario, andiamo con le bolle. Ragazzi, avete visto? Ero tutto Wattai! Potrebbe essere la fine del Kung Fu. Ma ce l'ho appena il Kung Fu! Vabbè, siamo passati in Oriente. Dobbiamo tenere d'occhio il Giappone. Il tuo Abe mi sta in crisi, Allora, non è esattamente così. O meglio, è anche così. I dati di agosto del trimestre precedente a questo erano brutti. Questi, ed erano già un allarme, perché c'era stato l'incremento delle tasse sui consumi. Questi sono brutti. Abe che farà? Andrà alle elezioni anticipate. Dovrebbe esserci una conferenza stampa. E a questo punto che cosa succede? Che la borsa festeggia, il Nikkei ha diciamo così vuole le elezioni. Tenete presente che poi l'altra cosa che farà Abe, che annuncerà, è lo slittamento, siccome era previsto un nuovo aumento delle tasse, quindi lui farà slittare di 18 mesi l'incremento fiscale. Dopodiché la ricetta funziona? Vedremo. È ancora presto per dirlo, nessuno ha la bacchetta magica in mano, come dimostrano i 5 lunghi anni di crisi, certo, dell'Europa. Intanto la crescita giapponese è più alta di quella europea. Segnalo anche un'altra cosa, che i 6 trimestri precedenti, nei 6 trimestri precedenti prima dell'aumento delle tasse di aprile, il Giappone era sempre cresciuto, quindi bisogna aspettare e vedere che cosa succede. Va bene. Un'altra serve bolla. Gente povera, furba e affamata, senza sentimenti. A volte vinci, a volte perdi, ma continui a combattere. E se vuoi un amico, prendi un cane. Questo era il commento di Gordon. Esatto, Gordon la Neto. Nuova bolla. La nuova bolla. Cosa dobbiamo annunciare? È che i sistemi di pagamento con i telefoni, insomma, stanno prendendo piede. Giovanni, tu pagherai col tuo telefono e ti puoi anche scordare la carta di credito. Vabbè. E così pure anche tu, buttafuoco, tu paghi in contanti. Speriamo. Speriamo. Se ci sono. Vabbè, Snapchat e Square, che cosa fanno? Lanciano un loro sistema di pagamento. Pensa, sono applicazioni usate dai giovani, si scambiano foto e messaggi, in realtà finiranno per servire da piattaforma per le transazioni. E va bene, lo vedremo questo. Che è il tempo che cambia. Salamino! Sì. Salamini, Rai alla radiovisione. Giovanni, tu mi autorizzi? Tu sei la storia della Rai. Posso? Puoi fare quello posso che infilarmi? Vuoi. Anche perché ho visto che la Rai adesso si è imbrigliata in tutta una serie di polemiche, di questioni. Allora, per esempio, 5 milioni di investimenti che l'Expo offre alla Rai. E quindi si attendono produzioni, documentari, cinegiornali, ricettari, talismani della felicità. Sono piccioli che vanno ad alimentare polemiche a non finire, polemiche di ogni tipo. Per esempio Luisa Todini, che è membro del CDA, nonché presidente di Poste Italiane, aveva annunciato le proprie dimissioni entro l'autunno, ancora non ha avuto modo, e quindi Roberto Fico, presidente della Commissione Vigilanza Rai, chiede che dopo le parole si passi ai fatti. Ma la Rai è sempre la Rai, e grande attesa c'è, a proposito di Fico, per l'arrivo dello stesso Fico tra i fichi di Saxa Rubra, che sarebbe la Cinecittà dell'informazione, certo, la Hollywood delle news, la Disneyland delle carriere. E non potendo farsi ricevere da Matteo Renzi, Luigi Gubitosi, cioè il direttore generale della Rai, si accontenterà di cogliere questo fico. Quindi niente carne, solo un brodino. Ma resta sullo sfondo una domanda. Domanda che ci domandiamo. Allora, perché mai la Rai in Australia ha mandato ben 5 inviati? Quello del TG1, quello del TG2, quello del TG3, quello di Rai News, quello di Radio Rai. Tutti quanti per seguire Matteo Renzi. 5. Per essere sicuri di raccontare la verità, dai. Però Gino Astorina, perché tu sei... Ma Gino Astorina, che è un genio della comicità, il grande e magnifico patron del Gatto Blu, ha dato la risposta. E che ha detto? Sapete perché tutti questi? Perché? Perché avevano paura che Matteo Renzi si perdesse. E allora, per evitare che si perda Matteo Renzi, io gli dedico questa atmosfera tutta Rai... Placida, perfetta, tranquilla, un po' come il suo governo che accompagna l'Italia alla serenità. È all'intervallo. Certo. Così come ci fu la parentesi della storia, l'intervallo della cronaca. Intervallo. E la nostra quota rosa oggi dove ci porta? Vi porto dalle mamme, infatti, care mamme, leggete l'articolo della Stampa di oggi, è tutto dedicato a voi. Capita di ascoltare mamme tagliate fuori dal mondo del lavoro, oppure mamme ingabbiate da una visione un po' romantica e un po' arcaica, che le vede troppo impegnate con i figli per sviluppare le loro capacità professionali. Ebbene, non è così. La maternità vale un master in leadership. Lo dice uno studio pubblicato su Inside Woman's Power. Capito? Power. Infatti, mentre vivete l'inferno quotidiano della gestione della prole scatenata, voi imparate a trattare, convincere, affrontare il potere e delegare. Insomma, ricordatevi che tutte voi mamme potete diventare dei capi perfetti. Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. Dopo la pubblicità, il canzoniere. Mix 24. Io lo faccio il canzoniere Pietrangio, ma qualcuno indovina? Qualcuno? Quello che abbiamo fatto per tutta la settimana? Quale? Sì, ah, non l'ha indovinato nessuno. Aspetta, ah, una dedica per chi non ha indovinato. Lo vedi? Vabbè, lo vedi? Okay. A furia di farsi raccontare Dante Alighieri da Benigni, finisce che i nostri ascoltatori non riescono a riconoscere le rime di Dante Alighieri. Dai, forza, quello di oggi, che siamo in ritardo. Quello di oggi? Va bene, vado? Vai. Il cadavere del defunto padre Zasima fu preparato per la sepoltura secondo il rituale. Quando muoiono i monaci, come si sa, non se ne lavano i corpi. Allorquando uno dei monaci faccia ritorno al Signore, il monaco ciò ordinato strofina il cadavere di colui con tiepida acqua, facendo prima con la spugna il segno della Santa Croce sul cranio del defunto. Vabbè, intanto non indovina nessuno. 800 24 00 24. Scusa, è stato un grande SMS 349 238 6666. La bolla. Mare, profumo di mare. Un grande successo della Rai. Con l'amore io voglio Bolt, no, giocare. No, Rai. Vabbè, insomma, la Bolt perché? Perché ho letto una notizia che mi incuriosisce parecchio. Riguarda sempre la robotizzazione della società contemporanea. Sapete, è una roba tua. Dai. Dei miei pallini. Vabbè, la Royal Caribbean sta varando una nave con dei barman androidi e altre raffinatezze tech. E il Bionic Bar, Giovanni. Sono curioso però di vedere come viene il Jim Martini con il mare mosso e il robot. È una bella domanda, che lo fa? In attesa delle risposte per il salami, per il nostro canzoniere, il salamino. Allora, acqua e pioggia, pioggia e fango, ascoltate. Per Giove piove, sicuramente, piove sulle matrone vestite di niente, piove sui bambini recalcitranti, piove sui mezzi guanti. Turchini, piove sulle giunoni, sulle veneri, a passeggio piove sopra i catoni, e quelli che peggio piove sul tuo cappello leggiadro, che ieri ho pagato, che oggi ci guasta, piove, governo ladro. Luciano Folgore, recitato da Carmelo Bene, la pioggia sul cappello. Allora, Giovanni, ancora una volta chiedo permesso a te. Naturalmente. Mi voglio infilare in una vicenda di storia per capire l'attualità. Allora, ricordare agli ascoltatori, agli amici che stanno in ascolto, che nel 1933 Araldo di Crollalanza, ministro dei lavori pubblici, istituiva i consorzi di bonifica, canalizzava e regolava il regime delle acque. Ancora oggi chi vuole andare a vedere quella meraviglia del genio della costruzione che fu l'acquedotto pugliese si rende conto di ciò che serve davvero in Italia. Perché poi, negli ultimi 50 anni, la democrazia del cemento ha scientificamente distrutto i consorzi e intere città sono state costruite sopra i canali demaniali, tombinandoli, si dice così. E i risultati si vedono. I risultati si vedono perché l'acqua è un dio esigente e siccome la nostra storia comincia da Rumon, che forse è perfino l'etimo della parola Roma, cioè il dio tiberino, Crollalanza queste cose le aveva capite, le aveva chiare, ma le aveva chiare anche Bacchelli quando scrisse Il Mulino del Po, le aveva chiarissimo Giovannino Guareschi e giusto ieri un sacerdote ha issato il crocefisso a salvaguardia delle acque. E allora io vorrei dedicare al dio Rumon questa bellissima canzone di Proietti. Quando spuntava il sole col caretto e l'acqua diventava trasparente. Ma speriamo, interpreta Tiberino. Speriamo che ci salvi. Il 15 novembre del 2000 moriva a 46 anni Edoardo Agnelli, il figlio dell'avvocato Agnelli. Ecco, sentiamo come lo ricorda una battuta di Lapo Elkan, nipote di Edoardo, e dopo il giornale radio racconteremo la sua storia. Edoardo era una persona bella dentro, bella fuori, insofferente e che soffriva, ed era una persona che come obiettivo avrebbe secondo me voluto migliorare questo mondo, molto più intelligente di quanto molti l'abbiano descritto. Ecco, oggi a MX24 raccontiamo il giallo della morte di Edoardo Agnelli, avvenuto in circostanze anche misteriose. Con Marina Milone sentiremo attraverso un'intervista Yash Gavronsky, che era uno dei più cari amici dell'avvocato. E per finire Malika con La prima cosa bella. Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non l'ho e non so suonare. di questa voce. Sono in fiore.